Capitolo terzo, in cui il mago Baol ritrova qualcosa che aveva perduto e l'avventura diventa tosta. 15. Siamo discesi per milioni di gradini di ferro, così mi è sembrato, e i nostri passi rimbombavano e si moltiplicavano fino a riempire l'aria di un metallico tam-tam. La mole immensa di René la Mucca mi precedeva ondeggiando, fin quando il frastuono cessò e camminammo furtivi su un pavimento di linoleum. Ci accolse la luce artificiale di un giardino sotterraneo, una giungla di piante vere e sintetiche. C'era odore di limone e ozono. Torsoloni di antiquariato stavano in agguato qua e là, verginone tronche, guerrieri invalidi, colonne mozze. Piacevoli bar terrazza, ghiaietto, vetri fumé e dappertutto cascatelle d'acqua, pisciatine nascoste, zampilli illuminati. Una musica di vibrafono nell'aria. Un reparto sotterraneo per il relax dirigenziale. Un cielo stellato di perspex ci sovrastava. «Il nostro contatto è qui», disse René la Mucca, nascondendo una minima parte di sé dietro una palma. «Nostro? Sono anch'io del gioco, Baol, non fare il furbo. Ti devo accompagnare dal tuo Alice, è il mio compito, poi ti arrangerai». «C'è un piccolo problema se dobbiamo circolare qui», dissi. «Sembriamo dei dirigenti?» René la Mucca esaminò con tristezza il completino d'omopac dal matato, che pure gli stava così bene. «Non va, eh?» «Ci penso io», dissi. Da un bar usciva un giovane managero con un vestito verde dollaro e un tesserino da VIP all'occhiello. Splendeva nel suo volto quell'intelligenza così libera da pregiudizi e barriere ideologiche da sembrare molto simile a un ottundimento. Lo affrontai, gli premetti un dito sulla fronte e dissi: «Le piacerebbe occupare la stanza del direttore generale?» «Certo che mi piacerebbe», balbettò il managero, «ma...» «Niente ma», risponda. «Le piacerebbe stare dietro alla suprema scrivania?» «Certo che sì». «Ebbene», dissi, fissandolo in modo ipnoseduttivo col mio sguardo Baol. «Cerchi di concentrarsi. Cos'è che sta da sempre dietro la scrivania, dentro la stanza del direttore generale? Glielo dico io, il ficus». «Certo», rispose quello, «il ficus, la sua pianta preferita». «Sì, di giorno e di notte. Il ficus occupa quella stanza e domina la situazione. Tutti i giorni il direttore generale lo annaffia personalmente. Il ficus conosce tutti i suoi segreti, partecipa alle sue gioie, ma è immune dalle sue ire. Mai un ficus è stato licenziato. I direttori passano, i ficus restano. Quale carriera è più felice, più vicina ai vertici aziendali e nel contempo priva di rischi e responsabilità?» «Voglio essere un ficus», disse il managero con gli occhi lucidi. «Perfetto, ora mi ascolti bene. Lei è uno splendido esemplare di Ficus Lanceolatus. Ora si spoglierà dei suoi vestiti e si nasconderà in quel giardino, tra i suoi verdi simili. Ne studierà le abitudini, la funzione clorofillare, il ricambio delle foglie. Imparerà a sorbire acqua come si conviene a un Ficus professionista. Dopo il corso di aggiornamento, provvederemo a trasferirla nell'ufficio del direttore generale». «Sono un ficus», proclamò il managero con un bagliore botanico nello sguardo. Si spogliò fulmineo e si infilò tra le piante, verso la sua nuova vita. Indossai il suo vestito. Ora ero un dirigente di primo livello e René la mia guardia del corpo. «E adesso dove si va?» chiesi. «A una festa, capo», disse René, guardandomi ammirato.